E siamo rientrati in diretta dopo questo brano che un po' ha sparigliato il percorso, soprattutto con questi due momenti che sono sicuramente un po' deraglianti. L'apertura, che ricorda molto a circa a metà del brano certe atmosfere di The Deccan Dance, soprattutto i The Deccan Dance ricordano con quel tipo di sonorità, quel tipo di sviluppo anche armonico e melodico, e poi questa parte finale che appunto ricorda canti religiosi, ma non siamo in chiesa, non preoccupatevi, siamo rigorosamente atei, in particolar modo io lo rivendico totalmente, ma ovviamente dentro una certa scena industriale o post-industriale o contaminata, come in questo caso rappresentata dal progetto che abbiamo appena ascoltato di Raison d'être, la scena svedese, l'elemento anche religioso iconoclasta rientra molto anche nell'immaginario non soltanto sonoro ma anche visivo, nelle copertine, nei bootleg inseriti, anche nella storia proprio anche di un certo di una certa scena della musica industriale, un modo anche di distruggere, di recuperare in parte, di ritrasformare certe dimensioni che in realtà erano destinate soltanto a una dimensione prettamente religiosa, ufficiale, assolutamente intoccabile. La musica industriale tocca tutti gli argomenti, dalla religione alla politica, ai simbolismi, alle relazioni, alla vita in tutta la sua dimensione più totalizzante, nella dimensione soprattutto della società moderna, ma anche delle dimensioni arcaiche primordiali. E dopo Raison d'être andiamo a presentare l'ultimo progetto della puntata di stasera di Fabbriche Sonore. Chiudiamo col botto perché andiamo a presentare uno dei personaggi più importanti anche a livello di iconografia, di personaggio, di performer della musica industriale, personaggio che cresce e sviluppa il suo percorso in terra statunitense, a San Francisco negli anni 70, famosissimo il suo motto, che è rimasto un motto fondamentale della scena della musica industriale. Il motto quale sarà? Adesso ve lo dirò, così rimarrete tutti stupiti. No, nulla di così incredibile, però è stato importante. Industrial music for industrial people. Insomma, credo che l'inglese lo conosciate un minimo tutti, ma se volete la traduzione, appunto, musica industriale per gente industriale, per persone industrializzate, comunque dentro proprio la dimensione della società industrializzata. Parliamo di Monte Casazza, che poi è stato un personaggio che ha fatto parte anche della famosissima formazione Psychic TV, ma ha anche collaborato con i grandi progetti come Trabengristor e Factrix, ma anche altri progetti come Atom Smasher, The Love Force, Chaos of the Night. Ma lo stesso Monte Casazza è uno dei totem, diciamo, della musica industriale. Le produzioni non sono particolarmente feconde o particolarmente numerose, in realtà ha fatto molti materiali autoprodotti e alcuni materiali anche inediti dagli anni 70 di Monte Casazza sono state raccolte in questa splendida compilazione che ha avuto proprio questa idea, questa finalità, quella di raccogliere materiali soprattutto della fine degli anni 70, The Worst of Monte Casazza, uscito nel 92 per la The Grey Area etichetta. E dentro appunto questa compilazione che raccoglie materiali, i primi materiali, quelli più provocatori, quelli più deliranti e assurdisti di Monte Casazza, andiamo proprio a chiudere con un brano tratto da questa compilazione splendida, progetto che merita di essere riportato alla luce per tutto quello che ha prodotto e quello che ha condizionato anche nella sua oscenità compositiva, esistenziale, provocatoria, e appunto lo cerchiamo di fare, l'abbiamo fatto anche in passato, perché all'interno di 451, nelle vecchie puntate, frammenti, sia 451 frammenti sonori nella edizione sviluppata su Radio Città Fujiko, ma anche in passato il progetto Monte Casazza è comunque attraversato i nostri luoghi radiofonici. Io ovviamente vi lascio con questo brano in Monte Casazza, che chiuderà il percorso sonoro di stasera Fabbriche Sonore, intitolato così. Spero che vi siete calati dentro questa idea, vi sia comunque piaciuto e vi ha dato una scossa anche un po' delirante, anche un po' elettrica, dunque proprio come se aveste messo due dita nella presa elettrica. Spero che abbia dato quel tipo di scossa o anche dei momenti di riflessione o di fuga e di delirio onirico attraverso le tribalità e le cosmicizzanti dimensioni di progetti come Deutsche Nepal, ma anche la violenza e la ossessività marziale di SPK e di progetti come Brighter Than Now, e anche ovviamente con il delirio finale di Monte Casazza. Vi lascio con il progetto Monte Casazza e vi aspetto ovviamente come ogni giovedì dalla mezzanotte circa fino all'una e mezza circa sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buonanotte da Elisio Scarpa e da 451 Intersezioni. Ah, se vi volete andarvi a riascoltare la puntata o vedere i materiali da cui sono stati tratti i brani che abbiamo inserito in trasmissione, tra qualche giorno verrà messa ovviamente online la puntata con queste notizie, con qualche anche particolare novità, qualche video, qualche sfizieria all'interno del nostro blog No Blog, 451frammenti.noblogs.org. Buonanotte da Eliseo, ovviamente Monte Casazza. Underworld code is very simple. Never squeal. Don't be a stool pigeon, rat, or informer. All crooks want everybody to believe that they are square. Cops are the same. They all wish everybody else to think that they act from principle. They are always telling everyone they meet about how much principle they have. It's against their principle to do this or not to do that. The queer part of this is that they not only want others to believe this, but they even believe it themselves. But the real truth of the matter is that they deceive themselves and mistake policy for principle. When crooks are square with anyone, it is because it is in their own interest to be so. It is good policy. When it ceases to be to their own interest to be square with one another, then it becomes time to change their tactics. And they are not slow in doing it either. It makes no difference to them who they snitch on. The matter if they have been loyal to each other through a whole lifetime as partners and friends. The matter if they send their friends to prison or to hell by way of the rope or chair. That cuts no ice. They are looking out for their own precious skin. They can benefit themselves at the expense of someone else, regardless of what the others have to suffer for their treachery. They will sure break the law of the underworld and open up and sing grand opera. I have known cases where men have been loyal pals and friends, have gone through every crime on the calendar. Murders, rapes, robberies, in jails and in freedom, in health and in sickness, riches and starvation and privation. Years and years together, and always loyal and square with each other. But when the time came for the test of the first law of nature, self-preservation, everything went overboard. They all squeal sometimes. Big crooks and little crooks. They all squeal when it is in their interest to do so. The greatest crooks I ever knew or ever heard of, they all do it. I have met every kind of crook. I have worked and lived both with and against them. Coppers the same. I know their tricks inside and out. I have associated with every sort, both in prison and on the street. Their words and thoughts are like an open book to me. I know them well to my sorrow. I have been mixed up in every kind of a crooked deal there is, with every kind of crook there is. Conmen and gangmen, prowlers and boosters, stick-up artists, can-opener artists, and sometimes face artists. Petermen and boxmen, paper hangers and crate hangers, hustlers and rustlers, pimps and McGimps, hookers from the big town, and hookers from the sticks, big shots and pikers, dynamiters and sodomiters, fruiters and foofters, big bats and gay cats, shipmen and gunmen, needle pumpers and snow snifters, hotheads and jugheads, wise guys and dumbbells, bootleggers and rum runners, wolves and gunsels, dips and short car gamblers, home guards and boomers, booze fighters and cop fighters, and last but not least, muzzlers and guzzlers. I have put in 29 years in the game of hooks and crooks. There is no angle of this game that I haven't tried at some time or another. I have met thousands and thousands of my kind in every different degree, from the kingpins and the biggest of big shots, down to the greasiest of grease balls. And without exception, one and all insist on deluding everybody and themselves that they are square, that they have in their makeup the sparks of principle and honor, that they keep the code of the underworld, that they never squeal. Anything and everything against anybody and everybody is quite all right and permissible at any time or place. But the one rule that must be kept regardless of anything else is that they must never squeal. No matter what happens, no matter what pressure is brought to bear on them to get them to open up and squeal, if the coppers work the old Mother and Jesus racket on them or give them the third degree, a wrong rap with a big stretch and stir, or even the rope or the chair, still they are supposed to keep their trap shut and never squeal. I have never met anyone who ever admitted that they were wrong, that they were school pigeons, squealers, or rats. They all insist that they are right guys and square crooks. Even when they are caught right in the act of going on the stand as a witness for the state against their pals, they won't admit it. One and all insist that they are men of honor, that they act from principle only. They all swear that they are loyal to the first law of the code of the underworld. It seems to be the case. The average person really believes this to be true. Most crooks believe it also. The average superficial observer only sees a very small part. He sees nothing of what goes on behind the scenes and under the surface. The actual facts of the matter are that none of the crooks are square with one another or with anybody. They are not square with the coppers, and the coppers are not square with them. The coppers are a pretty dumb lot. Most of them are well supplied with big flat feet and a big fat head, which is usually sadly lacking in gray matter. The coppers I have known, and I've known plenty of them, too damn many in fact, were and are a bunch of dumbbells who couldn't track an elephant in the snowbank unless they first had some rat or school pigeons to lead them to it and point it out. Most of them have plenty of brawn, but few have any brain. With all of the forces of the law behind the coppers, all the steel bars and stone walls, their guns and clubs, all would avail them nothing if it wasn't for their rats and school pigeons. The third degree and the rats are the best and worst weapons that the cops have. Yet they will never admit that they have or use either. Therefore, it stands to reason that the coppers and the crooks are all working together and all double-crossing each other at the same time. And yet, each and all of them are always yelping about their honor and their great principles. honor among thieves is the bunk. We'll be right back.